Ragazzi e ragazze carissimi in ascolto, Ave Maria a tutti, da parte di Don Leonardo Maria Pompei, per una nuova puntata, se Dio vuole, insieme di Spazio Giovani. Continuiamo il nostro excursus sui 10 comandamenti e ci avviamo verso il termine del secondo comandamento, e parlando oggi, se il Signore ci aiuta, di una fattispecie molto particolare della bestemmia su cui anche da sacerdote, più di qualche volta, qualche fedele ha avuto modo di fare qualche domanda, insomma, dice: ma Don Leonardo, ma che significa quando Gesù dice nel Vangelo che tutti i peccati saranno perdonati, tranne la bestemmia contro lo Spirito Santo, che addirittura dice Gesù non sarà perdonata né nel secolo presente né nel secolo futuro? Cosa significherebbe questa cosa? Quindi la misericordia di Dio non è infinita. Quindi non è vero che Dio perdona tutti i peccati. Che cosa sarebbe questa particolare fattispecie così grave che Gesù dice queste parole così forti, che non potrà essere perdonata né nel secolo presente né nel secolo futuro? Ecco, con l'aiuto del Signore oggi indagheremo un po' su questa figura un po' particolare, un po' misteriosa, se vogliamo, di comportamento ingiurioso nei confronti di una persona divina, secondo quello che dice Gesù, la terza persona della Santissima Trinità, che a differenza delle bestemmie di cui abbiamo trattato nelle puntate precedenti, costituirebbe un peccato assolutamente imperdonabile, quindi senza alcuna possibilità di salvezza. Allora, innanzitutto io vorrei partire da un paio di Vangeli in cui è Gesù in persona, quindi gli lasciamo un attimo la parola, che parla di questo peccato, Vangeli che chiaramente poi dovremo ambientare e circostanziare, perché dall'ambientazione e dalle circostanze in cui Gesù pronuncia queste parole si comprende più di qualcosa. Detto questo, vediamo subito il Vangelo di San Marco, al capitolo 3, versetti 27 e 30. Dice queste parole: in verità vi dico, tutti i peccati saranno perdonati ai figli degli uomini e anche tutte le bestemmie che diranno. Quindi sta parlando dei peccati qui, delle bestemmie di cui abbiamo parlato fino alla puntata precedente. Quindi le bestemmie come parole ingiuriose rivolte contro la Santissima Divinità, oppure quelle un po' più raffinate, attraverso pensieri o attribuzioni di cose, insomma, che sono indegne di Dio. Ma chi avrà bestemmiato, prosegue Gesù, contro lo Spirito Santo non avrà perdono in eterno, sarà reo di colpa eterna, attenzione, poiché dicevano è posseduto da uno spirito immondo. Ora, qual è la circostanza di questo e dell'altro Vangelo che è il parallelo di San Matteo che andremo a leggere tra poco? Gesù aveva operato una guarigione, o meglio, aveva fatto un esorcismo. Oh, scusate, aveva operato, sì, un esorcismo, e i suoi nemici cominciano ad accusarlo formulando questo capo di imputazione. Ascoltate bene: è in nome di Beelzebul, capo dei demoni che caccia i demoni. E prima di formulare questa sentenza, Gesù dice: state attenti, ragazzi, state attenti, fate questo piccolo ragionamento. Ragionamento che era valido allora, ma che è valido anche oggi, no? Secondo voi il regno del demonio è un regno che sembra che sta alla frutta, diciamo noi dalle nostre parti a Roma, oppure è un regno che purtroppo nel suo male sembra essere abbastanza prospero, ben organizzato e in buona salute? Punto interrogativo. Ecco, se la risposta, questa è una domanda retorica ovviamente, è la seconda, allora sappiate una cosa, che se un regno fosse diviso in se stesso, starebbe per andare alla rovina, allo sfacelo, perché è esperienza comune degli uomini che le divisioni e le discordie interne, intestine, in tutti i regni che noi conosciamo sulla terra, portano alla loro decadenza o estinzione. Quindi, se fosse vero che io caccio i demoni nel nome del principe dei demoni, vorrebbe dire che il regno di Satana sta alla frutta. Ma siccome il regno di Satana non sta alla frutta, perché dite una cosa di questo genere? Anche questa è una domanda retorica. Ecco, qual è il senso? Allora, il senso è questo: da che mondo è mondo ci sono diciamo così, due caratteristiche, anzi tre, che sono in presenza delle quali noi ci troviamo, come dire, infallibilmente di fronte alla presenza di Dio. Guardate che sono tre, ragazzi, quindi questo vale anche, è uno dei criteri fondamentali anche di discernimento che i sacerdoti usano per distinguere veri e falsi, presunti mistici, eccetera, eccetera. Allora, quali sono le cose che soltanto Dio può fare o soltanto Dio può sapere? Numero 1. Un miracolo in senso stretto. Il demonio fa delle cose prodigiose, ma non dei miracoli in senso stretto. Per esempio, voi che siete tutti bravi e siete andati a messa domenica scorsa, avrete sentito il miracolo delle nozze di Cana. Ora, il demonio non è capace a cambiare l'acqua in vino. Non è capace. Perché per cambiare l'acqua in vino bisogna agire sulla sostanza degli elementi, alterandone sulla base di quella sostanza la conformazione chimica. Ecco, il demonio questo non lo sa fare. Il demonio è un po' come avete visto i maghi, gli illusionisti, non fa veri miracoli, fa dei giochi di prestigio, ma non un miracolo in senso stretto. Così come, per dire, se a uno gli tagliano un braccio, Dio lo può far ricrescere quel braccio in qualunque momento, il demonio no. Quindi il demonio sa fare soltanto giochi di prestigio oppure rielaborare il dato creato sulla base a volte, come dire, di combinazioni di meccanismi che per esempio lui già conosce e l'uomo ancora no. Certo che più tempo passa, più i suoi margini d'azione si restringono perché il progresso dell'uomo sta cominciando ad avere delle proporzioni abbastanza grandi, no? Quindi la scienza è riuscita a spiegare molte, molte cose. Quindi questo è il primo distintivo di Dio. Sapete qual è il secondo? Il secondo è la conoscenza certa di quello che San Paolo definì, scusate, che San Tommaso d'Aquino chiama con questo termine tecnico, i futuri contingenti. Ora, i futuri contingenti. Perdonatemi l'espressione, però queste sono le espressioni tecniche, io poi comunque le spiego. I futuri contingenti cosa sono? Sono un evento futuro, totalmente, come dire, casuale. Casuale nel senso che dipende dalla totale libertà degli enti creati, oppure totalmente, tra virgolette, da quello che noi chiamiamo caso. Vi faccio un esempio. Noi possiamo prevedere che tempo farà domani e oggi con un certo margine notevole di approssimazione, perché ci sono degli studi che sulla base di alcune circostanze atmosferiche permettono di dire domani pioverà o domani ci sarà il sole. Quindi questo evento futuro non è un futuro contingente, ma poiché dipende da cause fisiche che hanno ordinariamente delle leggi, è facilmente prevedibile. Per cui un meteorologo non serve certamente che consulta la mente di Dio per capire che domani o dopodomani pioverà. Questi tipi di futuri si chiamano contingenti necessari, quindi, cioè, sono cose che in presenza di alcune circostanze conosciute da prima certamente accadranno. Queste sono conoscibili dagli uomini e dai demoni. I demoni chiaramente ne conoscono molti di più degli uomini perché conoscono molte più leggi di noi. Ma quello che io farò domani pomeriggio, ecco, alle 3, non dico le 4 e mezza perché domani alle 4 e mezza, a meno che non ci prenda tutti quanti un colpo, io ogni mercoledì dalle 3 e mezza alle 5 meno un quarto faccio catechismo al secondo anno di cresima, quindi lo posso prevedere. Però domani alle 3, cioè precisamente alle 3 in punto domani cosa sto facendo? Non lo so, perché potrei stare a fare una serie determinata di cose. Certamente io ho qualche idea, qualche progetto, però potrei cambiarle in qualunque momento. Cioè, le cose che potrei fare domani alle 3 sono infinite. Potrei stare a dare l'olio santo a malato, potrei stare a confessare, potrei stare, speriamo, a riposare, potrei stare a guardare la televisione. Questo è molto difficile, che accade quasi mai. Però mettete tutto quello che volete. Allora, Dio e solo Dio sa perfettamente quali sono tutti gli eventi futuri contingenti da adesso fino alla fine del mondo. Cioè, se Dio volesse divertirsi, potrebbe dire a ciascuno di voi che mi state ascoltando: guarda Franco, guarda Letizia, guarda Alessandro, guarda Francesco, che tu, non lo so, il 15 marzo di quest'anno alle ore 15 e 23 e 20 secondi starai in questo posto facendo questa cosa e pensando questa cosa. Te lo metti in una busta chiusa e ti dice aprila 5 minuti dopo che sia successa questa cosa e troverai scritto esattamente quello che stai facendo. Perché questa è la conoscenza che c'ha Dio solo. Allora, quando un evento di questo genere è circostanziato in questi particolari, il demonio non lo può conoscere. Il demonio può prevedere alcuni eventi, non solo quelli necessari, ma anche quelli contingenti, perché conosce bene noi uomini. Quindi, però, il problema è che fa delle previsioni generiche, uno, quindi non sa dirti, per esempio, il 15 marzo alle 15:23. Non lo so, starei prendendo di un caffè nel bar che si trova a Milano in Corso Sempione numero 26. Questo il demonio non lo sa, d'accordo? Ecco, e non lo sa nessuno. Lo saprai tu dopo che questo fatto sarà accaduto. A proprio pure vedere se te lo ricordi, perché avete visto nei processi penali, no? Che stai facendo quel giorno all'ora X? Ma immaginate se andiamo sotto processo. Se mi chiedessero a me cosa stavo facendo in un giorno all'ora X, che più tempo passa con tutte le cose che mi mette davanti il padre eterno, non mi ricordo tra poco più, manco quant'anni ho. Sarebbe un problema se andassi sotto processo, trovarmi qualche alibi, perché non me lo ricordo, quindi, ecco. Allora, in presenza di un evento futuro e certo, noi dobbiamo cedere e dobbiamo riconoscere che questa cosa è propria di Dio solo. Quindi, quando a qualche santo è successo, per esempio, a Padre Pio, Padre Pio, per esempio, aveva previsto che Karol Wojtyła diventasse Papa. E se tu gliel'avessi chiesto, ti avrebbe detto anche quando. Capite? Allora, in presenza di una cosa di questo genere, lì c'è Dio. Quindi, in presenza di un miracolo certo, in presenza della conoscenza di un evento futuro appartenente al mondo dei contingenti possibili, quindi non necessari. Terzo, il potere sui demoni. Perché i demoni, uno, ubbidiscono soltanto a chi è superiore rispetto a loro. Quindi a noi uomini i demoni non ci ubbidiscono. Essendo molto superiore a noi ed essendo molto cattivi, non è una piccola obbedienza al demonio, è l'obbedienza al demonio che lo costringe a fare ciò che è contro la sua volontà, perché Satanasso, quindi il principe dei demoni, li comanda e come? E gli anche in un certo senso, in un certo modo, ubbidiscono i demoni, organizzati nel fare il male. Ma, per esempio, quando voi leggete alcuni esorcismi dove il demonio è costretto durante l'esorcismo a dire una serie di cose che vanno contro i suoi interessi, io ne conosco a bizzeffe di queste cose, oppure quando viene cacciato da un'anima, è segno certo della presenza di Dio. L'esorcista, o anche un non esorcista che faccia una preghiera di liberazione, non caccia il demonio in nome proprio, ma lo fa sempre in nome di Cristo. Perché il demonio fugge soltanto dinanzi al nome di Cristo o della Madonna, cioè creature che sono superiori a lui. Allora Gesù aveva appena scacciato un demonio, quindi aveva dato, insieme anche a tutte le altre due cose che le ha date durante la vita terrena, no? Ha fatto il primo miracolo, nozze di Cana, è stato il primo di una lunga serie, e conosceva i cuori e gli eventi futuri, come ha ampiamente circostanziato, per esempio prevedendo la distruzione di Gerusalemme. Prima della sua morte, ma questo è soltanto uno fra i tanti, oppure gli annunci della passione che dava nel Vangelo, d'accordo? Oppure, altro esempio ancora più importante, quello che fece a San Pietro, no? Non canterai il gallo per la 2 volte prima che tu mi abbia rinnegato 3 volte, questo è circostanziato, capite? Dato la sera prima, ha detto 3 rinnegamenti, 2 canti del gallo, quindi. D'accordo? Ecco. Allora, il parallelo di San Matteo, così poi concludiamo, è un pochino più specifico, quindi la circostanza è esplicita. Gesù si difende dall'accusa di scacciare i demoni per opera del principe dei demoni e dice: perciò io vi dico, qualunque peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito Santo non sarà perdonata. A chiunque parlerà male del figlio dell'uomo sarà perdonato. Ma la bestemmia contro lo spirito non gli sarà perdonata né in questo secolo né in quello futuro. Allora, questa è la fattispecie principale. Allora, perché questo è un peccato contro lo Spirito Santo? Dobbiamo capire questo. Allora, cosa stanno facendo di fatto i nemici di Gesù? Stanno di fatto negando l'evidenza. Cioè, la fede, fratelli e sorelle carissimi, io in questi giorni ho detto tante volte al nostro Signore, dico, guarda, Signore mio, più tempo passa. Adesso mi cominciano a venire un po' di capelli bianchi e poi in testa ce ne sono sempre di meno, quindi si vede che stiamo andando verso la maturità umana, spero cristiana, e anche verso una certa maturazione sacerdotale, no? Mi rendo conto di una cosa, ragazzi e ragazze carissime, quindi vi sono a tutti vicino. La fede, stiamo nell'anno della fede, è davvero una cosa grossa. E il sacrificio che richiede una vita di fede all'uomo è un sacrificio grandissimo. Perché la fede, come diceva San Giovanni della Croce, è una conoscenza oscura, per cui tutte le verità per le quali noi viviamo, se siamo cristiani, e su cui investiamo tutto, sono tutte cose inevidenti. L'unica autorità è la parola di Dio, e le tentazioni e i dubbi contro la fede, vi ricordate però il peccato contro il primo comandamento, non possono essere volontari, se no sono peccati mortali, sono costantemente all'ordine del giorno. Noi non dobbiamo consentirvi, ma le tentazioni contro la fede sono in continuazione. Ora, su che cosa però allora, il Signore questo lo sa, sarà attenti che la fede non è, come dicevano Lutero e gli amici suoi, un atto, come dire, di un salto nel buio, cioè io chiudo gli occhi e mi sta bene tutto. Non è così. Non è vero che è così, ragazzi. Perché Gesù non ha fatto così. Gesù, quando si è presentato al mondo, si è accreditato come figlio di Dio. Vi ho già detto queste tre cose, che sono le tre caratteristiche che attestano la presenza certa della divinità. Le ha fatte tutte e tre. Quindi, come nasce la fede in noi? Perché dalla fede nasce la conversione, capite? E nasce quindi la possibilità della salvezza. La conversione e la salvezza, come vedremo, che sono la grazia più grande che lo Spirito Santo possa fare. Allora, Dio dà dei segni, capite, fratelli e sorelle carissimi, ragazzi e ragazze carissimi, dei segni che li sottopone alla tua ragione. Dice, guarda, io ho cacciato i demoni, tu mi devi trovare una spiegazione ragionevole a come ho fatto questo. Dire che è in nome di Beelzebul non è ragionevole, ma è darti la zappa sui piedi, è dare la spiegazione più assurda che ci sia. Perché è contrastata dall'evidenza dei fatti, perché il regno di Satana, sia ai tempi di Gesù, sia oggi, peggio ancora, è tutt'altro che traballante, è bello, prospero e vegeto. Il che significa, ma voi vi ricordate, avete studiato la storia, fino a quando i nazisti sono stati nazisti, sembravano invincibili, sembravano. Fino a quando i romani sono stati romani, che hanno conquistato il mondo, sembravano invincibili. E di fatto lo sono stati. Altro che il regno che sta andando in rovina. Quando mai? E perché erano così? Perché c'era una disciplina ferrea. Per esempio, per quanto riguarda i nazisti, indubbiamente nel male. Ma la disciplina era ferrea. L'esercito nazista metteva paura. Le SS mettevano paure. L'obbedienza a Hitler era assoluta. Assoluta, tant'è vero che sapete che hanno fatto anche dei crimini pazzeschi, per quanto avevano dato obbedienza assoluta a questo folle. Allora, cioè, se noi vediamo un regno così prospero, come fai a dire che io scaccio i demoni per mezzo del principe dei demoni? Quindi, cioè, che mi do la zappa sui piedi da sole, che quindi mi sto per portare all'autodistruzione, all'autorovina, ma quando mai? E i miracoli in nome di chi li avrebbe fatti il nostro Signore Gesù Cristo? In nome di chi? Qualcuno di voi è capace di dare gli occhi, vi ricordate il capitolo 9 del Vangelo di Giovanni, no? Quando incontrano il cieco nato che era guarito, cominciano a dire, ah, quest'uomo viene dal demonio, ha fatto questo, ha fatto quest'altro. A un certo punto sto poraccio, che si capisce dal contesto che non era certamente un dottore e uno scienziato in teologia, dice, sentite un attimo, chi sia questo non lo so, d'accordo? Non mi interessa. Io so solo una cosa: sono nato cieco, ero cieco fino a 2 ore fa, adesso ci vedo. Ditemi voi come ha fatto a fare questa cosa. Ah, quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato, è un demonio. Dico, ma sarà pure un demonio, però io non ci vedevo e adesso ci vedo. A casa mia i demoni non fanno il bene, fanno il male. e gli uomini non sono stati mai capaci di farmi vedere, aprire gli occhi. Se posso sapere chi sarebbe questo Gesù, allora chi è? Allora, attenzione, se tu neghi l'evidenza di questi fatti, non soltanto neghi l'evidenza, ma addirittura gli attribuisci esattamente il significato contrario, perché Gesù ti fa vedere una cosa per darti un segno certo della sua origine divina e tu travisi colpevolmente per la tua ostinazione questo episodio dicendo altro che origine divina, questa è la prova che è il capo del demone, dei demoni. Non capite quanto è grave? Non è grave per l'offesa che si fa al nostro Signore Gesù Cristo, ma è grave perché facendo questo tu ti poni nell'impossibilità oggettiva di essere salvato, perché c'è una chiusura talmente radicale che Dio stesso rispetta e che impedisce alla grazia di operare nel tuo cuore. Ecco perché è peccato contro lo Spirito Santo. Ed ecco perché non può essere perdonato. Attenzione, non perché Dio non lo può o non lo vuole perdonare, ma perché questa fattispecie, che è questa, diciamo, da cui parte il discorso, e anche le altre che vedremo, che sono state identificate dalla tradizione della Chiesa, poi San Tommaso che le elenca tutte e sei, sei peccati contro lo Spirito Santo, numero 6, certamente non casuale. E costituiscono, lo vedremo subito, tutta una serie di comportamenti che sono forme di chiusura e di opposizione radicale e tendenzialmente irreversibile all'azione della grazia. Capito? Allora, vedremo che dentro questo discorso, per esempio, spero che mi ascoltiate bene, ragazzi, perché ogni tanto, guardate, questo è un anno di grazia, l'anno della fede, per fare un po' di formazione. Ancora un sacco di gente va dicendo in giro: ma la Chiesa non dà la comunione ai divorziati, ai risposati, sono tutti brutti e cattivi, perché non hanno pietà di queste povere coppie, di queste povere famiglie che soffrono tanto, che ci hanno avuto un matrimonio fallito a destra e a sinistra, di giada, bianco, nero, eccetera, eccetera. Allora, vedremo adesso, subito dopo la pausa che faremo tra qualche minuto per salutare la Madonna, che non, le cose non stanno così. No, affatto. Cioè, la situazione, per esempio, di una coppia di divorziati risposati che vivono come marito e moglie, perché se non vivono come marito e moglie, come sapete, spero, il discorso cambia, rientra in una delle fattispecie di peccato contro lo Spirito Santo. Cioè, loro non è che uno gli vuole dare la comunione perché, come dire, hai fatto questo, la punizione è che non fai la comunione. Non è questo il discorso. Oppure non è che se tu vieni a confessare non ti assolvo perché sono brutto e cattivo, e siccome l'hai fatta troppo grossa dico: ah, disgraziato, crepa e io non ti assolvo. Come hai osato violare la santità del sacramento del matrimonio? Non è questo. Abbiamo già parlato tante altre volte, in tante trasmissioni. Ma se tu stai in una situazione che ha uno stato di peccato, non perché lo dico io, ma perché Gesù nel Vangelo dice: se uno ripudia la moglie, ne sposa un'altra, commette adulterio, e chi sposa una ripudiata commette adulterio. Dio perdona qualunque peccato, purché tu sia pentito. Pentito vuol dire riconoscere che quello è peccato e proporlo di non farlo più. Se tu questo non lo riconosci e non hai il proposito di non farlo più, stai vivendo in una situazione, ve l'anticipo, che si chiama ostinazione nel peccato. Cioè tu stai in peccato, sai di esserci e non vuoi lasciarlo. Allora, a queste condizioni il perdono non esiste. Ma non è che non esiste perché Dio non te lo vuole dare. Non esiste perché tu non stai nelle condizioni di poterlo ricevere. Spero di essere stato chiaro. Comunque, adesso, focalizzando le fattispecie, sicuramente avremo un quadro un pochino più chiaro. Intanto vi invito ad unirmi con me, facciamo una piccola pausa, sempre a metà della nostra trasmissione, salutando che sono le 17 circa e Maria Santissima, in concomitanza con l'ora della sua apparizione a Rüdebach come Madonna miracolosa, come l'Immacolata, che è foriera di ogni grazia e benedizione a chi umilmente la prega ricorrendo a lei. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, esaminata questa fattispecie del Vangelo che diciamo ci ha fatto comprendere il genere peccato contro lo Spirito Santo, quindi è peccato contro lo Spirito Santo ogni azione in cui l'uomo volontariamente si chiude all'azione della grazia, in una condizione che è almeno in atto, quindi momentaneamente, di chiusura tetragona, radicale. Potremmo definirla chiusura radicale definitiva all'azione della grazia. Quindi, dentro questo genere, la Chiesa, e lo si trova anche nel Catechismo, sicuramente l'esempio X, ma credo anche nel Nuovo, ha enucleato, sulla scia della grande analisi teologica di San Tommaso d'Aquino, dottore Angelico, sei fattispecie, tipologie, se vogliamo, di bestemmia contro lo Spirito Santo. La disperazione della salvezza, 1. La presunzione di salvarsi senza meriti, 2. L'impugnazione della verità conosciuta, 3. L'invidia della grazia altrui, 4. L'ostinazione nel peccato, 5. E l'impenitenza finale, 6. Ora attenzione, prima di iniziare ancora l'esame nel dettaglio, vorrei sistematizzare, diciamo, ciò che vi ho accennato prima, esaminando la fattispecie generica, e per esempio comprendere come secondo la visione cattolica, oggi non sempre chiara, detto fra me e voi, perché c'è un'ampia diffusione di protestantesimo purtroppo anche dentro le file di Santa Romana Chiesa, ahimè. Ovviamente non nella Chiesa, ma da parte di qualche uomo di Chiesa o di qualche teologo un po' così. Cerchiamo di capire come funziona il processo della giustificazione del peccatore, che non funziona come diceva Lutero, e come oggi più di qualcuno pensa, la misericordia di Dio è finita, siamo tutti buoni, Dio è buono, perdona tutto, andiamo a fare tutti in paradiso, non va nessuno all'inferno, eccetera, eccetera. Non funziona così. Allora, lo si riassume in qualche minuto, d'accordo? Neanche, forse in 2 minuti. Rapido, rapido, semplice, semplice, chiaro, chiaro. Allora, ci sono alcune idee da avere chiare e distinte. L'uomo con il peccato originale è decaduto, quindi si trova in una condizione di incapacità di compiere da se stesso e senza l'aiuto della grazia alcuna azione utile alla salvezza e quindi di meritare in senso stretto la grazia di Dio. Cioè, l'uomo, uno, non può salvarsi da se stesso e due, non può convertirsi. Ha bisogno della grazia, si intende con grazia semplicemente lo Spirito Santo considerato nella sua azione rivolta verso gli uomini. D'accordo? Mentre quando parlo di Spirito Santo, parlo, sic et simpliciter, parlo della terza persona della Santissima Trinità, così come si trova nella vita divina, quando si parla di grazia si parla della stessa terza persona della Santissima Trinità in quanto agisce in noi. Tutto qua. Allora, lo Spirito Santo nei nostri confronti svolge, essendo questa la situazione dell'uomo, una triplice azione. Anzitutto prende l'iniziativa, toccando l'anima del peccatore e muovendo la sua volontà verso il bene. Secondo, aiuta la volontà del peccatore nello sforzo di decidersi a lasciare il male per abbracciare il bene. Quelle si chiamano grazia preveniente, se volete i nomi tecnici, grazia cooperante. Nel caso in cui la libera volontà del peccatore assecondi e consenta questa azione, quindi si converte, lo Spirito Santo prenderà stabile dimora nell'anima, si chiama la grazia santificante, ed è questo che significa vivere in grazia di Dio, e attraverso questa sua dimora stabile nell'anima l'aiuterà a compiere le opere sante e giuste necessarie per meritare la salvezza. E per dare ad essi, attraverso la carità infusa, causa di merito in senso stretto, sia del premio della vita eterna che di grazie sempre più grandi per santificarsi in misura sempre maggiore. Spiegato? Spero di essere stato, guarda, ho detto in 2 minuti il trattato del De Grazia, che si studia con un anno di corso di teologia. Ora, attenzione però, dinanzi a tale azione, l'uomo è passivo? L'uomo è destinatario? L'uomo non esercita nessun tipo di concorso o di resistenza affatto? L'uomo è protagonista sotto tutti i punti di vista, perché deve cooperare a tutti i livelli. Anzitutto, prima della conversione, l'uomo si dispone alla conversione, non può causare la conversione né meritare la conversione, ma può disporsi. Punto primo, compiendo quel poco di bene naturale umano che sa e che può, usando bene la facoltà dell'intelligenza e seguendo i richiami gravi della propria coscienza. Perché anche quando noi siamo privi della grazia, la coscienza ci rimane, quindi gli uomini sono avvertiti, anche a volte in maniera non chiara, quando fanno qualcosa che non va. Lo sentono quel richiamo indefinito, interiore. Se lo ascoltano, lo assecondano, fanno una cosa buona. Se, pur in presenza di una coscienza non illuminata perfettamente, hanno il discernimento del bene e del male e comunque fanno il bene che conoscono come tale e evitano il male che conoscono come tale, dice San Tommaso, si predispongono, non è che per questo Dio è obbligato in senso stretto a dargli la grazia perché l'hanno meritata, no, ma loro comunque si sono ben disposti e c'è molto da sperare che attraverso questa buona disposizione in qualche modo Dio la grazia gliela faccia arrivare. Secondo, durante il processo di conversione, perché te la fa la grazia nostro Signore, ma dinanzi al richiamo dello Spirito Santo la volontà resta radicalmente libera, perché può accogliere la grazia oppure può rifiutarla. Ogni volta che noi abbiamo una chance, guardate, anche quando ascoltate queste catechesi, cioè, vi faccio un esempio, adesso non è perché sto parlando io, qualunque santa catechesi che uno ascolta è un momento di grazia. È un momento di grazia, nel senso che sicuramente se è una catechesi ben curata e comunque pensata per il fine che c'è una catechesi, no? Una catechesi c'è il fine di suscitare la conversione. La conversione non vuol dire necessariamente la grande conversione, cioè lasciare il peccato mortale e cominciare a vivere da buoni figli di Dio, ma c'è anche la conversione dal bene al meglio, c'è la conversione dal meglio all'ottimo. Tu senti una bella predica dove si parla della bellezza e dell'importanza, adesso sparo una bombetta, di portare il velo in chiesa, non l'hai portato mai, dici ma quasi quasi potrei portarlo. Portare il velo in chiesa non è una cosa che se uno non lo porta si va all'inferno, quindi non è materia da peccato mortale o da peccato veniale, sicuramente è cosa gradita a Dio e alla Madonna. Quindi se la fai, fai meglio, se non la fai, non fai peccato. Senti una bella predica e c'è un combattimento, se tu sei una bella signorina tanto attaccata alla tua immagine, alla tua esteriorità e tanto vergognosa di farti vedere con quel gesto di mortificazione fatto davanti a tutti che oggi non lo fa nessuno. Che faccio? Lo faccio o non lo faccio? Lo faccio? E tu sei libero in quel momento. Tu sei libero. C'è chi, vi posso assicurare, c'è chi lo fa e c'è chi non lo fa. Quindi capite che c'è una cooperazione reale dell'uomo e in questo il Signore ci lascia liberi al 100%, liberi al 100%. Ma anche dopo la conversione, perché anche se abbiamo la grazia santificante, compiere il bene e le opere sante necessarie per meritare la vita eterna richiede uno sforzo continuo e un lavoro continuo su se stessi. Non date retta a qualche incantapopoli, a qualche pifferaio magico, che ce ne girano non pochi anche dentro più di qualche movimento di Santa Romana Chiesa, tanto non faccio i nomi, che vanno a raccontare in giro la fandonia delle fandonie, creando l'illusione delle illusioni, la virtù senza sforzo. Ah, non serve che tu ti sforzi di fare le opere buone, le compi e lo Spirito Santo in te. Ma dove sta scritta questa cosa qui? Quando mai si è sentita dire una cretinata del genere? Perdonatemi il termine, cioè queste cose si sentono pronunciare nell'isola di Creta, non nei posti normali. Gesù Cristo nel Vangelo dice sforzatevi di passare per la porta stretta, perché larga è la porta che conduce alla perdizione e comoda è la via e ci vanno quasi tutti. Invece la porta che conduce alla vita è stretta e la via è angusta e sono pochi quelli che la trovano. ancora, non chi dice signore, signore, signore fai tu, signore pensaci tu, cioè che questa è una preghiera che si può e si deve fare in alcune circostanze, capite bene il senso in cui sto dicendo le cose, non chi dice signore, signore, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, non chi sta lì a dire signore, ecco, guarda, io non dico di no, però non ci riesco, fallo tu al posto mio. Ecco, puoi starci pure tutta la vita a pregare così, Gesù non fa le cose al posto tuo. Gesù fa le cose con te. Per questo che la Chiesa, aprite il catechismo della Chiesa Cattolica, nel presentare la reale e retta dottrina sulla giustificazione, ha sempre rifiutato l'idea della salvezza per la sola fede, basta credere in Gesù Cristo, o l'idea della salvezza senza le opere. Come pensava San Lutero, come pensava l'empio Lutero, ma esattamente il contrario. E quindi, questo termine si trova nel catechismo della Chiesa Cattolica, ha sempre parlato di sinergia, cioè il processo della salvezza richiede un'azione principale, indubbiamente, che viene da Dio e che è della grazia, ma un'azione subordinata e cooperante, quindi dubbiamente subordinata e cooperante, ma necessaria, che viene dall'uomo, perché come dice Sant'Agostino, Dio che ti ha creato senza di te non ti salverà senza di te. Quindi lavorano insieme la grazia e la libertà dell'uomo, tanto più quanto più risponde positivamente a tutti i richiami della grazia a tutti i livelli, prima della conversione, durante la conversione e dopo la conversione, intendendo con conversione non soltanto la grande conversione, per questo camminiamo sempre in conversione, io ho 41 anni e rotti e sto camminando in conversione, ogni giorno devo imparare qualcosa di nuovo, ogni giorno devo mettermi in ascolto e fare le cose che faccio sempre meglio e cercare di fare le cose per il bene degli altri in misura sempre più abbondante, sempre più numerose. Allora, ecco qua, partendo da questo caso evangelico, e quindi prima di scendere nel merito, forse cominciamo a trattare almeno una, quindi è ovvio che l'esempio fatto è un rifiuto di riconoscere in Gesù il Salvatore nonostante l'evidenza dei miracoli e degli esorcismi, cosa che determina chiaramente che cosa? L'impossibilità di una prima conversione, perché la prima conversione in cosa consiste? Chi crede in Lui ed è battezzato sarà salvo, insegna Gesù nel Vangelo, in Lui sarebbe in Gesù, chi non crederà sarà condannato. Per credere devi accogliere i segni che accreditano Gesù come figlio di Dio, se ti chiudi a quelli non crederai in Gesù, se rifiuti di credere in Gesù non c'è la prima grande conversione, non c'è. Ed è per questo che la Chiesa, apriamo un'altra piccola parentesi, anche questa espressione, oggi stiamo nella settimana di preghiera dell'unità dei cristiani, quindi sicuramente qualcuno storcerà la bocca, ma è un'espressione che rimane vera, perché è stata coniata dai padri della Chiesa, extra ecclesiam nulla salus, cioè fuori della Chiesa, questo significa, non c'è alcuna possibilità di salvezza. Immaginate già quante vesti che si stanno stracciando, ma come, stiamo nel dialogo ecumenico, le religioni sono tutte uguali, no, le religioni sono tutte uguali neanche per niente ragazzi e ragazze carissime, perché il Concilio Vaticano II, che molti usano per fargli dire ciò che non ha mai detto e mai inteso dire, perché altrimenti si dovrebbe giungere all'assurdo che un concilio è eretico, cosa che non è vera, attenti non è vera, quindi chiunque mi ascolti, se lo levi proprio dalla testa, è vero che ci sono alcune espressioni, poche, in qualche documento, pochi, che se non rettamente corrette si prestano ad equivoci e ad abusi. Questo l'ha dimostrato Monsignor Gherardini in tutte quante le sue opere a cui rimando, tipo il Concilio Vaticano II, un discorso da farsi, e che mantengono una posizione equilibrata, per cui forse potrebbe essere opportuno, ed è quello che lui chiede, a cui io mi associo sottoscrivendolo, un chiarimento magisteriale in questo senso, nel senso di dare i criteri della lettura autentica, quindi compatibile con il dettame cattolico, di alcune espressioni un po' ambigue, come di fatto è stato già fatto per un documento, che è la Gaudium et Spes, scusatemi se adesso entro in questo termine, scusate, non la Gaudium et Spes, scusate, la Lumen Gentium. La Lumen Gentium fu approvata a condizione che il discorso sul collegio episcopale, che è affrontato mi sembra numero 21 e 22, fosse preceduto da quella che è una nota esplicativa previa, che fa parte della Costituzione, parte integrante, e che ha il compito di dare la retta interpretazione del discorso sul collegio episcopale, onde salvare la fondamentale verità cattolica che nella Chiesa il primato di Pietro è un primato effettivo e reale, e è un primato non limitabile da chi che sia. Quindi, se tutti i vescovi del mondo, per assurdo, fossero d'accordo su una cosa e il Papa no, quella cosa non si fa. E questo è stato spiegato nella nota esplicativa previa, perché parlando dell'eccellenza e dell'importanza del collegio episcopale non si andasse a ingenerare il sospetto che dentro il collegio episcopale, cioè dentro la riunione di tutti quanti i vescovi della Chiesa Cattolica, il Papa perda il suo ruolo di primato e sia in qualche modo incatenato, gli siano legate le mani. Quindi questa operazione, forse, io questo lo concedo tranquillamente, anzi forse anche senza forse, potrebbe essere opportuna con qualche altra espressione. Ecco, però quando la Lumen Gentium parla anche delle altre fedi non cattoliche, dei cristiani, dei musulmani, dice una cosa fondamentale, ed è questa, che coloro che si trovano al di fuori della Chiesa, attenzione, senza colpa propria, quindi ignorandone l'esistenza oppure la necessità per la salvezza, attraverso dei mezzi che Dio solo sa e seguendo il dettame della propria coscienza verso il bene, quindi seguendolo, quindi facendo il bene che conoscono essere come tale, possono conseguire l'eterna salvezza. Attenzione però, specifica che questa possibilità, come dire, ridonda e raggiunge le chiese non cattoliche grazie alla mediazione della Chiesa cattolica unita al suo capo Cristo. Non so se mi sono spiegato. E questo è un particolare fondamentale. Cioè, se uno dovesse chiedere, ma un luterano che è nato da generazione a generazione in mezzo a Lutero e che, diciamo, da un punto di vista soggettivo non è entrato a contatto serio con il cattolicesimo e quindi non ha compreso la necessità di convertirsi e quindi di entrare nella Chiesa cattolica per essere salvato, potrebbe andare in paradiso? Sì, se vive coerentemente la sua fede conosciuta come tale e il bene che comunque la sua coscienza gli detta di fare. Ma questo, ci sono due cose che bisogna capire. Uno è che comunque la sua salvezza dipende sempre dalla mediazione della Chiesa, e secondo, non c'è mica detto quando. C'è detto quando? Allora, c'è comunque una differenza abissale, perché se io divento santo nella Chiesa Cattolica, c'è anche il pericolo che quando muoio mi faccio soltanto qualche ora di purgatorio, se divento santo da altare, qualche ora o al massimo un paio di giorni, e poi me ne vado in paradiso. E questi che vivono nelle altre chiese potrebbero anche andare in paradiso dopo il giudizio universale. Potrebbe darsi che il Signore li lascia in purgatorio per tutto dopo il giudizio universale, o no? Non c'è scritto quando, c'è scritto che, cioè che la possibilità della salvezza, quindi, perché uno dovrebbe dire, ah allora lo vedi, allora se noi, vedi, se anche un luterano è possibile che si salvi, non andiamo a affliggere, perché dopo, capace che se noi gli andiamo a annunciare il Vangelo e che rifiuta, se ne va dannato. Ma questo è discorso assurdo questo qui, perché la possibilità teorica, tra l'altro, di salvezza fuori della Chiesa, non vuol dire fine della missione evangelizzatrice, ma vuol dire sbrigati a farla. Perché mentre se tu accogli la Chiesa e vivi da cristiano cattolico in grazia, tu sei moralmente certo, anche se non devi essere presuntuoso, della salvezza, anche se, come scrive San Paolo, devi attendere alla tua salvezza con timore e tremore, sapendo che devi perseverare fino alla fine, che in qualunque momento, se non stai attento, il demonio ti fa un bello sgambetto e ti riporta a vivere in stato di peccato. Questo noi dobbiamo esserne sempre consapevoli, però è diverso avere tutti i mezzi di salvezza, avere sette sacramenti anziché uno o due, come nelle altre chiese, avere tutte le verità di fede anziché il 50%, il 30%, il 40%, avere la possibilità della mediazione dei santi e della Madonna. Cosa che, in qualche, che quasi tutte le religioni non cattoliche, diciamo gli ortodossi, sono un pochino più devoti alla Madonna rispetto alle altre religioni di origine protestante, ma quasi nessuna ha una devozione grande alla Madonna. Com'è possibile averlo nella Chiesa Cattolica, anche se molti ci levano contro purtroppo anche nella Chiesa Cattolica di questi tempi? Il che ci fa capire che bel segno dei tempi che stiamo vivendo, no? Quindi, ecco, allora, tornando alla fattispecie, se tu scambi Gesù per il demonio, ti metti nell'impossibilità di compiere l'atto di fede in lui e quindi di entrare a far parte dell'unica chiesa che lui ha fondato, che è la Chiesa Cattolica. D'accordo? Se perdura questo stato di chiusura, ove si rifiuta appunto in modo consapevole la grazia della conversione, ci si autocondanna senza appello all'eterna dannazione. Attenzione che questo, cioè il discorso del peccato contro lo Spirito Santo, è direttamente legato proprio a filo con la verità di fede dell'esistenza dell'inferno e della possibilità reale, non ipotetica, di eterna dannazione. Possibilità di eterna dannazione, ragazzi, vi rimando a uno splendido convegno fatto 3-4 anni fa, io ci sono partecipato a Firenze dai Francescani dell'Immacolata, sia sul mio canale YouTube sia sul sito della mia parrocchia. Io mi sono permesso di inserire i video di alcune stupende conferenze, tra cui quella di Padre Stefano o quella di Monsignor Arthur Calkins, per esempio, sul pensiero dei santi, sull'esistenza dell'inferno, che sono state fatte. Quindi, cioè, l'inferno è una possibilità reale che non nega la misericordia di Dio, attenti, ma attesta la serietà della libertà dell'uomo. Noi non possiamo scherzare con la nostra vita e non possiamo in nessun modo. Una delle grosse sciocchezze che scrisse Martin Lutero, guardate che queste sono cose demoniache al 100%, io spero che lui non ne fosse consapevole. Fu un'operetta che, sapete come si chiamava? De servo arbitrio. Lo capite dal titolo, no? Quindi era tutta quanta tesa a dimostrare che in realtà l'uomo non è realmente libero, ma che praticamente è tutto già deciso, è tutto già scritto. Ma questo non è vero affatto, questo qui, ragazzi. Non è vero affatto, cioè la nostra libertà è una cosa realissima, autenticissima e importantissima, importantissima. Guardate, mi soffermo un attimo su questo perché, vi ripeto, ho sempre 41 anni e mezzo e comincio a fare il prete da qualche tempo. Io ho parlato e conosciuto tante persone, tante, tante, tante, di svariatissime condizioni di vita, di tutte quante le età, e adesso comincio anche a conoscere da varie parti d'Italia, comprendendo quindi la grande massima dei nostri nonni, che tutto il mondo è paese, perché tanto l'uomo dovunque lo metti a Milano, lo metti a Brindisi, è sempre lo stesso, d'accordo? Non ci sono salvo piccole sfumature, dialetti diversi, usi diversi, tradizioni diverse, ma la sostanza del cuore dell'uomo è sempre la stessa. La nostra libertà è un fatto realissimo, ragazzi. Le scelte che noi facciamo sono importantissime perché determinano la vita. Cioè, la vita di una persona che tende alla santità, vi prego, è una vita benedetta da Dio. Quando anche ci fosse la fine del mondo, quando anche tutto andasse male, quando anche fosse piena di croci, quello che volete, è una vita benedetta. Vuol dire una vita benedetta? Una vita benedetta vuol dire una vita in cui regna la gioia, l'amore e la pace, cioè questa triplice cosa, che non si perdono mai, mai, nonostante qualche volta che arriva anche qualche bombardata o qualche botta di quelle che sono memorabili e che ti scuotono un pochino. Ecco, però, e come si fa ad avere una vita santa? A Ma sapete come si fa ad avere una vita santa? Che cosa abbiamo detto su sulla grazia? Allora, lo Spirito Santo tutti i giorni, diciamo così, ci sprona in due modi. Lascia qualche difettuccio, lascia qualche imperfezione, lavoraci sopra, migliorati e cresci in qualche virtù, fai qualche opera buona in più, fai qualche cosa di buono in più. Vogliamo fare un po' di esempi? Adesso prendete gli esempi per quello che sono, quindi non fate venire le cose. C'ho questa sera 2 ore libere, cosa faccio in queste 2 ore? Allora, voi capite che in queste 2 ore c'è una gamma di possibilità che vanno dalle cose proibite dalla legge di Dio a cose santissime. Prendete un sabato sera, cosa faccio il sabato sera? Cosa fate, ragazzi, il sabato sera? Vado a mangiarmi una pizza con gli amici? Vado in un locale a bermi una birra? Vado in discoteca? Vado, non lo so, a vedermi uno spettacolo teatrale? Vado al cinema? Non so, che altro fa? Vado a giocare a poker, adesso ne dico anche qualcuna di quelle che non si possono fare. Vado a donne, perdonatemi, d'accordo? Vado a, come dicono i mali ragazzi, vado a rimorchiare? Ah, voi sapete che ci sono alcuni matti, perché i matti non sono mai finiti, no? Io 2 volte al mese, il sabato sera, faccio una veglia mariana in chiesa dalle 9 a mezzanotte. Ci sono alcuni ragazzi che vengono, lo sapete? Giovani, 18 anni c'hanno alcuni. Allora, non è che voglio, cioè, raccontiamo dei fatti. Secondo voi, da un punto di vista di grazia santificante, cioè, cosa è meglio, andare alla veglia o andare al cinema? Anche se tu andassi al cinema a vedere un film bellissimo, ragazzi, capitemi bene il senso di quello che sto dicendo, a vedere i film belli si può andare al cinema, d'accordo? Io anche una volta al mese faccio vedere un film ai ragazzi del post-cresima, capite bene quello che sto dicendo, che non vi fate venire le idee che è tutto peccato, non sto dicendo questo, però sto dicendo che se tu hai il fegato, il coraggio, magari qualche volta di dire questa sera faccio la cosa migliore che si possa fare. Perché è meglio che sta 3 ore davanti a Gesù a pregare, e cosa c'è? Niente, no? Noi ci diciamo 3 rosari durante la veglia, letture spirituali, adorazioni, esame di coscienza, con pietà, eccetera, eccetera. Immaginate quanta grazia che ricevi. Io non mi ricordo dove, non so se era un messaggio della Madonna o qualche autore spirituale che ha scritto che se tu sei capace di stare per 3 ore di seguito in chiesa, per questo che la veglia dura 3 ore, davanti al Santissimo, quindi in un posto dove è custodito l'Eucaristia, quindi anche in chiesa davanti al tabernacolo, anche se chiuso, non c'è grazia che Dio non ti doni. È impegnativo una cosa del genere? Certamente sì, ragazzi. Non è una passeggiata starsene 3 ore di seguito in preghiera. Prova a farlo. È ovvio che tu fai una cosa del genere, ti arriva un autotreno di grazie. Allora, è ovvio che aver ricevuto quell'autotreno di grazie non è la stessa cosa che non averla ricevuta. Conseguentemente è ovvio che in base a quell'evento tu hai ricevuto delle cose migliori rispetto a chi questa scelta non l'ha fatta. Capite? Pensate invece quando uno va a fare il male, cioè che degrada la propria persona e, come dire, aumenta il carico, abbiamo già fatto credo questo discorso la volta scorsa, di potere che il demonio c'ha su di lui. Allora, poi quando si arriva a 20, 30, 40 anni, guardate che tutti i nodi, ragazzi, ragazze carissime, tutti i nodi vengono tutti al pettine. State attenti, non è che Dio punisce e castiga, Dio punisce e castiga, ma prima che Dio punisca e castiga, è la vita che ti presenta il conto. La vita te lo presenta il conto. E attenzione, Dio perdona, ma la vita no. Cercate di capire questa espressione, cioè se tu hai fatto degli sbagli, se tu hai fatto delle scelte che ti hanno compromesso in qualche modo la tua esistenza, che vogliamo fare? Queste scelte ne pagherai il conto. Se tu hai avuto, per esempio, hai scelto un legame fragile con una persona, d'accordo? Non ti sei sposato e ci sei andato a fare i figli di mezzo, costituendo un legame fragile. Poi questa persona ti prende, ti pianta e se ne va con qualcun altro, facendo una cosa che è sbagliata, d'accordo? Però Questo sbaglio in un certo senso era in qualche modo prevedibile, perché tu ti sei andato a unire con una persona in maniera così labile, sei in un certo senso tu che hai accettato la possibilità, o meglio, il fatto che questa fosse un'unione labile, che quindi in qualunque momento si potesse interrompere anche senza conseguenze. Capite? Perché cioè, quando per esempio un uomo lasciasse solo una donna con prole, senza avere neanche il matrimonio civile, diventa difficile e complicato anche passarci i soldi per campare. È una cosa che non va, certo che è una cosa che non va, è una sofferenza enorme, ma certo che è una sofferenza enorme. C'hai tutta la solidarietà possibile, ma certo che c'è tutta la solidarietà possibile. Però la domanda è sempre quella: ma chi te l'ha fatto fa andarti a imbarcare in una storia di questo genere? Capite? Quindi c'è una differenza abissale. Quindi altro che di servo arbitrio, che servo arbitrio? Noi siamo liberi e la libertà comporta responsabilità, cioè tu quando fai una scelta devi metterti a ponderare alcune cose, che te ne vai a convivere così? Pensa figlio mio e figlia mia, che te convivi? Cioè tu stai dando l'autorizzazione a una persona a infischiarsene di te. E a fondare una unione sulla no, no, no, non sulla sabbia, sarebbe troppo, sulle sabbie mobili. Quindi, quando poi dovesse accadere ciò che speriamo che non accada, ma che potrebbe accadere, certamente che piangerai, però, anche se nessuno te lo dirà, meno che mai un sacerdote, nel segreto della tua stanza tu dovrai dirti che a causa del suo mal pianga se stesso. Perché se fossi stato un momentino più attento, un momentino più accorto, non andavo a fare una scelta che mi esponeva a rischi così grandi. Già un rischio è un matrimonio sacramento, figuriamoci, ma una unione senza la benedizione di Dio. Quindi ho voluto fare questo esempio, per cui cioè, attenzione ragazzi, altro che di servo arbitrio, la prossima volta, diciamo che questa nostra conversazione di oggi ha avuto un pochettino il compito introduttorio, la prossima volta le vedremo queste fattispecie, ma sono tutte fattispecie che sono l'attestazione radicale della libertà dell'uomo e di quanto nostro Signore questa libertà la prende sul serio perché non sfonda le porte Dio, né violenta la nostra libertà. È un modo di starci vicino da Dio, quindi da padre, da persona innamorata, che proprio perché è innamorata, ma voi pensate che sia innamorata una persona che fa violenza all'amato perché accolga il suo amore? Provate a farvi qualche rappresentazione, no? Io sono innamoratissimo di una donna, questa non mi corrisponde, sarebbe amore se io le facessi violenza? È esattamente la negazione dell'amore, no? E vi pare che Dio farebbe una cosa che neanche un uomo farebbe? Perché sarebbe la negazione radicale dell'amore? Assolutamente no. Quindi la nostra libertà non solo che c'è, ma c'è come fatto realissimo, serissimo e foriero di altissime responsabilità. La prossima volta, se Dio vuole, approfondiremo le singole fattispecie. Io do la mia benedizione a tutti e vi saluto. Se vorrete, la prossima settimana, a tutti, Ave Maria.